Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Settimana scorsa, precisamente il 16 e il 17, si è svolta una 2 giorni dedicata alle prospettive di produzione di energia dal mare, organizzata dall'Enea. Un workshop che però poi ha raccolto un po' tutti gli esperti italiani che operano su questo fronte. Vi vogliamo raccontare un po' dei risultati che ne sono usciti. Iniziamo questa sera a partire da una prima panoramica generale. Ci facciamo aiutare in questo da Luigi Cavaleri, che è ricercatore del CNR ISMAR, cioè il Centro di Ricerca sulle Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buonasera Cavaleri. Buonasera a lei. Allora Cavaleri, è dagli anni 70 che si lavora su questo fronte, quello diciamo di tirar fuori energia dal mare, però i risultati finora non è che siano molto incoraggianti. Qual è la principale difficoltà con cui ci si scontra? La difficoltà maggiore sostanzialmente consiste in questo: lei deve mettere in mare un oggetto che nella maggior parte delle soluzioni deve essere ancorato, deve essere esposto alle onde, deve essere movibile, e questo lo rende estremamente vulnerabile. Lei deve fare un oggetto che sia sensibile anche alle onde piccole se vuole avere una certa continuità di produzione, però allo stesso tempo questo oggetto deve resistere alle più forti mareggiate e quindi avere una struttura robusta, il che evidentemente contrasta con la prima necessità. Tra l'altro, come dire, l'ambiente marino è particolarmente aggressivo, no? È più aggressivo per esempio di un analogo ambiente in acqua dolce, per esempio. Ah, no? Certamente il mare, diciamo, mette alla prova qualsiasi materiale, è un problema sia di resistenza meccanica, sia molto, per esempio, per il problema della corrosione. Lei mette 2 metalli diversi in mare vicino e uno di due tende a erodere l'altro, certo. Molto semplicemente. Sostanzialmente i costi di installazione e soprattutto i costi di manutenzione sono quelli che hanno, diciamo, frenato gli impianti più grossi al largo. Ci sono degli impianti costieri, certamente di tipo diverso, però dove allora anche la quantità di energia che si può ricavare è corrispondentemente limitata. Senta, dunque, mi pare che essenzialmente i fenomeni ai quali si guarda per produrre energia sono 2, onde e correnti marine. Cominciamo dalle onde. Abbiamo sperimentato tutti, tra l'altro penso sul bagnasciuga, la forza delle onde, sia quando l'onda arriva sia quando si ritira, no? La risacca, sì. Il risucchio, come tanti dicono, diciamo, in modo un po' improprio. Ma davvero quindi le onde rappresentano una fonte di energia che ha un potenziale elevato? È elevatissimo, adesso non ricordo la cifra, ma praticamente la quantità di energia che si frange su tutte le coste del mondo supera di ordini di grandezza tutta quella che ci serve per la Terra, certamente, insomma, questo non c'è dubbio. Ecco, come si fa a estrarre energia dalle onde? Sostanzialmente possiamo dividere queste in 2 grandi classi. Uno è qualche cosa in mare che inevitabilmente oscilla. Ci sono vari sistemi, si possono inventare una cosa o l'altra, per esempio sfruttare la pendenza che oscilla a destra e a sinistra, oppure semplicemente qualche cosa, diciamo, un po' erto che preso dalle onde oscilla avanti, indietro. Mm-hmm. Sostanzialmente si vuole sfruttare questo movimento oscillatorio, appunto, oscillatorio, caratteristico, diciamo, dell'onda, poi dello strumento, certo, che mettiamo, certo, in acqua, certo, per pompare dei liquidi all'interno attraverso una turbina e quindi generando dell'elettricità. D'accordo. Solo che praticamente lei ha degli oggetti enormi, molto grandi. Sì, dei grandi galleggianti di solito, sì, o qualcosa del genere. Sì, sono tutti galleggianti, evidentemente ancorati però, ovviamente. Sì. Poi c'è tutto il problema del collegamento a terra, dei rendimenti di tutte queste cose. Certo. Per ogni 100, diciamo, unità di energia c'è un valore molto limitato che si riesce a estrarre in termini 30-40%. Esistono addirittura un teorema fondamentale che spiega che c'è una quantità massima di energia che si può estrarre da un'onda. La seconda classe, sì, che sarebbe in linea di principio più promettente, non fa altro che mettere un cilindro tipicamente di cemento verticale, cavo in acqua, chiuso nella parte alta, e l'acqua nella risacca che va avanti e indietro con le onde non fa altro che premere, mettere in pressione l'aria all'interno, di nuovo facendola forzare attraverso una turbina che quindi produzione di elettricità. Senta, però parliamo di correnti adesso. Quali sono le tecnologie, le famiglie di tecnologie? Parlando della tecnologia, esistono anche qui due famiglie di strumenti. Uno non è altro che il classico ventilatore. Sì. Diciamo una copia più o meno delle pale eoliche, però messa in acqua, ovviamente con un design diverso, un po' più piccole. Sì. Di forma molto diversa. Tipicamente la turbina idraulica ha delle pale molto complesse che, viste in prospettiva, coprono completamente, mentre l'eolico ha delle lasciano pale ampi spazi, certo. Sì. Con un design adeguato all'acqua anziché all'aria. Sostanzialmente sì, e anche alle velocità diverse che evidentemente dobbiamo affrontare. E il secondo tipo, di un tipo meno intuitivo, ed è quello che se la corrente è orizzontale, l'asse di rotazione è verticale e ha delle pale disposte su un cerchio piuttosto ampio, messe in posizione tale per cui in una certa posizione vengono spinte e in un'altra riescono a tornare dalla parte opposta. Anche qui c'è un analogo nel campo eolico, sono diciamo degli oggetti simili alle fruste, quelle che si usano per montare le uova, per capirsi, in campo eolico perlomeno, con le pale orientate in questo modo, no? Esattamente, diciamo un esempio che possiamo tutti vedere sono gli estrattori di aria di cabina o di macchina delle navi, evidentemente ci sono fatti apposta per ruotare col vento e sono fatti così perché possono ruotare indipendentemente dalla direzione da cui arriva il vento. E lì vale per le correnti marine, indipendentemente dalla direzione delle correnti marine questi girano, non hanno bisogno di orientarsi. Va bene Cavalieri, abbiamo esaurito il tempo, grazie di essere stato con noi. È stato un piacere, buongiorno e buon lavoro. Ci fermiamo qui, appuntamento domani, buona serata.